America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It was at 2:45 when I had just received the phone call of someone claiming to be the Orlando shooter. And he said, I did it for ISIS, I did it for the Islamic State. Ecco, questo è Matthew Gentili, pensate, il producer di Channel 13, un canale locale di Orlando, che a un certo punto riceve una telefonata e racconta di questa telefonata la telefonata di Omar Mateen, che lo chiama dalla discoteca. Gli chiede, ma tu hai sentito della notizia dell'attacco alla discoteca? Lui dice, sì, sì, l'ho sentita. Bene, dice, io sono l'attentatore. E poi comincia a parlare in arabo, poi comincia a ripetere, l'ho fatto per l'ISIS, l'ho fatto per la mia nazione. Ecco, è uno dei tantissimi dettagli che sono emersi attorno a questo eccidio. Ma la notizia, devo dire, più interessante che abbiamo avuto ieri riguarda il ruolo della seconda moglie di Omar Mateen, Nozahi Salman, di origine palestinese. Beh, la notizia è che il procuratore a Orlando ha deciso di raccomandare l'incriminazione di questa donna al gran giurì. Si stanno raccogliendo le prove, poi sarà il gran giurì naturalmente a decidere, ma la notizia è che questa signora è stata in qualche modo complice del marito. Di certo sappiamo che questa donna sapeva che Omar voleva scatenare un attacco, ma non ha avvertito la polizia, non l'ha avvertita sabato sera scorso, quando il marito è uscito di casa in tarda serata, appunto per andare a Orlando a compiere la sua strage. Ha detto, ho cercato di fermarli, ho detto di non andare, eppure è andato lo stesso. Ci si chiede, ma perché non ha chiamato la polizia se sapeva cosa andava a fare? E cosa andasse a fare lo sapeva, perché è stata con lui a comprare delle munizioni in un negozio. Aveva visto le armi che il marito aveva comprato e soprattutto era stata con lui almeno una volta al Pulse. Quindi adesso abbiamo dei fatti che ci dicono che non è che Omar Mateen è andato al Pulse perché anche lui era gay e quindi questo ha dato adito all'idea che potesse essere un omosessuale represso e così via, così via. Magari lo era anche, però non è andato al Pulse perché era gay, è andato al Pulse per fare dei sopralluoghi e la moglie questo lo ha confermato. Qual è il punto? Questa signora rischia di essere incriminata per connivenza in un omicidio di massa. Ecco, queste informazioni non sono soltanto delle curiosità, sono importanti nel contesto della polemica in corso nella corsa per la Casa Bianca del 2016 nella politica interna americana, perché, come vi dicevo prima, sembrano screditare l'ipotesi che Mateen abbia compiuto l'attentato solo perché era un gay represso e invece rafforzano l'ipotesi di indottrinamento su internet che lo avrebbero radicalizzato, come ha detto sempre ieri un altro agente dell'FBI. Ecco, la narrativa secondo cui questo signore era un semplice squilibrato ma non motivato o legato dall'estremismo islamico, beh, in qualche modo cade dopo queste rivelazioni di ieri, mette, come dire, un po' in difficoltà Barack Obama, che continua a non voler usare il termine estremismo islamico o radicalismo religioso islamico, su cui c'è stata, come sapete, una polemica con Trump. Ecco, su questo punto dell'Islam radicale, beh, Trump potrebbe acquisire alcuni punti di vantaggio nei confronti di Barack Obama, che rifiuta invece di chiamare il terrorismo dell'ISIS e dei loro seguaci estremismo radicalismo islamico, per non offendere 1,6 miliardi di musulmani nel mondo. Ma Trump invece, beh, si scontra contro Hillary, la quale invece è stata molto più dura ed esplicita nel chiamare il radicalismo islamico per quello che è. We have a new national Bloomberg Politics poll shows Hillary Clinton leading Donald Trump 49% to 37%. E dunque, in questo contesto, devo dire, la persona che ne esce meglio è proprio Hillary Clinton, perché ha fatto un discorso l'altro giorno straordinariamente equilibrato, molto duro. Ieri ha continuato a ripetere in un comizio che darà la caccia ai lupi solitari fino a quando non li avrà presi tutti. Ovviamente è una promessa, la missione, sappiamo, sarà molto difficile. Ma proprio ieri ha avuto un dato molto confortante. Un sondaggio nazionale condotto da Bloomberg ha dato ieri all'ex First Lady il 49% delle preferenze contro il 37% per Trump su base nazionale, un vantaggio di 12 punti. Pensate che fino a un paio di settimane fa i sondaggi erano molto più stretti, cioè parliamo di 44% medio per Hillary contro il 42% medio per Trump. Dopo la rilevazione di Bloomberg anche le medie si sono modificate, sempre a vantaggio di Hillary, resta intorno al 44-45%, ma Trump scende al 38,6%. Ecco, questo sondaggio è relativo al periodo successivo all'attacco che Trump fece contro il giudice di origine messicana, e però ci conferma che cosa? Che insomma gli americani non sono aperti, predisposti a un eccessivo razzismo. Quindi, così come non hanno apprezzato quello che ha detto Trump del giudice messicano, beh, così non apprezzeranno la sua idea di voler bandire i musulmani dall'entrare negli Stati Uniti d'America. Tra l'altro è stato attaccato anche da Mitch McConnell, capo della maggioranza al Senato, da Paul Ryan, presidente della Camera. E dunque Trump, avendo capito che insomma le cose per lui non si mettono bene, ha deciso di fare un incontro con l'NRA, la National Rifle Association, la lobby delle armi, per chiedere che almeno coloro che sono nella lista no fly, cioè che non possono prendere un aereo negli Stati Uniti perché sospetti di essere terroristi, non possono comprare delle armi. Bene, chiudiamo con un'altra notizia. Devo dire, ieri ne abbiamo avute parecchie, questa è importante. Il Federal Open Market Committee, il comitato monetario della Federal Reserve, ha chiuso le riunioni di due giorni, ha lasciato, come ci aspettavamo, i tassi invariati fra lo 0,25 e lo 0,50%, però la Yellen nella conferenza stampa ha fatto capire che insomma questo rallentamento nell'approccio all'aumento dei tassi continuerà per qualche tempo. Ha anche fatto capire che ci saranno forse due aumenti nel corso del 2016, ma attenzione, due invece di quattro, perché originariamente erano attesi quattro aumenti. Ci sono però anche almeno sei governatori che invece pensano che forse sarà sufficiente soltanto un aumento di questi tassi. Quindi in generale il messaggio per il mercato è che di tassi, di aumenti dei tassi, per il momento non se ne parla. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, restiamo in tema, perché questo attentato è stato davvero orrendo, questo utilizzo sfrenato di armi dovrà in qualche modo essere bloccato, e io spero che nel momento in cui non solo Trump ma anche Mitch McConnell, capo della maggioranza al Senato, ha chiesto di introdurre delle regole per moderare questa vendita di armi, beh, cerchiamo di incoraggiare anche noi questo movimento. Vi propongo una canzone di protesta contro le armi pesanti, le armi militari, contro il Thompson Submachine Gun in particolare, che è un mitra americano calibro 45 che è ancora in circolazione, e dunque dei The Clash, Tommy Gun, una canzone contro questo mitra. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!